famiglia. No, io non sono per bene per niente. È allucinazione. Poi ho fatto sintomo strano. E quindi martedì o mercoledì la posso farla controllare, se sono fattibile, boh. Ma soffre di Alzheimer, per caso. Ehi, già lo sai, sì. E allora è quello, Ari, non ti preoccupare. Vedono cose che non esistono, così è. La madre di questa amica mia diceva che c'era sempre odore di caffè bruciato. No, lei dice che c'è una uguale a lei, nello specchio. E sono dovuta col cane, cazzo. Dio da te tu. E magari fa qualche confusione con lo scumi e cose, ho capito? Fa qualche confusione, c'ha le contorte. Sì, ma comunque non ce l'aveva prima, quindi adesso mercoledì o giovedì, adesso vediamo un po', la posso controllare, magari ho qualche pastiglia per farglielo sparire questa cosa. Sono cose che vedono loro, poveri, cosa puoi fare? È una malattia che a momenti ragionano e a momenti non capiscono nulla. Vedi che me ne sono capizzato io, la voglia. E che si vuol fare? Guarda, chissà come finiremo con noi gli anziani. Vabbè, cosa è vero. Dopo non lo sappiamo come devo finire. C'ho un stress addosso io, se deve diventare peggio di prima, io figurati. Da una cosa all'altra, fare spesa, fare cosa, fare quell'altro, dividermi da qua là, e quindi non ce la fai più così, capito? Lo so, questi a piedi, chi fosse stato in macchina, magari le cose le avresti alleviate di più. Appunto perché sono a piedi, se ti pigli tre buste di spesa, se stai, fai la salita dall'aerospin fino a qua, con l'ombrello, come cazzo fai dall'ombrello? Quindi sei obbligato a farti la doccia. Beh, non c'è un mezzo che porta sotto casa tua. E il tram già si ferma di fronte, ma deve aspettare 15 minuti che aveva vai. E magari in discesa te la fai a piedi, che sei leggero, poi quando sei carico ti prendi il tram. Sì, con queste scarpe che c'ho, sai come ci siedo dritto nel tram? Ho comprato un paio di scarpe che scivolano in quel tappetino del tram, te non hai idea. Adesso devo comprarmi le scarpe diverse, perché se no qualche giorno c'è scolito nei sedili di dietro, spesa completa. Aiuto, dove comprate queste scarpe scivolose? Nello spin ho preso, la verità. E quando cammino nel pavimento, quello di Italia scivola lo stesso. Capito? Sono rigida, capito? Plastica rigida, quindi come cammini ci si dritto. Avevano belle per mattinare. Non c'è nessuna aderenza, capito? Quindi è per quel motivo lì. Una volta sono andato in tram, è partito, sono scivolato, non mai scivolato, mi sono mantenuto. Se c'è uscito dritto giù in fondo, mi sembra la spesa. Non sei diventato vero, bro. No, sono vedovo, perché? Per fare la spesa, sei da solo, devi fare i quattro, a destra, a sinistra. Cazzo che la tira, mamma. Purtroppo dobbiamo essere in due. Già lo sai che tu, ah sì, vabbè, tu ce l'hai portata, dove l'hai portata tua madre. Io ce l'ho a casa di mio fratello, quindi ci dobbiamo dividere in due, capito? Devo fare la spesa per mamma, la spesa per me, eccetera eccetera, quindi sono solo, hai capito? Mia mamma mi associa, mia mamma già è viva ancora, ciao Gianni, non ti ho sentito, in quattro, a destra, a sinistra, perché ci mangia. Vabbè, tua suocera, ma faceva la fame, appunto, cosa faccio? Non posso neanche prendere l'abbondante, perché a parte che super ho detto mamma qui non me le danno, quindi ci abbiamo dividere in due, quindi mi tocca fare la spesa perché mamma ormai è per conto suo, quindi bisogna controllare se va per la porta, il cane parte in quarta, parte a casa mia e a lei altrettanto si chiede fuori di casa, e capito cos'è il problema, e quindi bisogna tagliare attaccata al culo. Tutto e gli altri che si raffugano e dopo si fanno vivi sopra le verità, sempre così succede. Purtroppo così, meglio ci vuoi fare. Vabbè, ma io ne so se ero troncato un bel po'. Questa cara che ho voluto andare a Mella, ma già c'era figlio, quindi sempre a casa era. Va bene, va bene. Mio padre 14 anni non si fa a casa. Vabbè, ma la giornata va bene, non è che c'aveva l'Alzheimer, mi sembra. Ma guarda, adesso, cioè, piglia le cose, si dimentica dove le mette, ti piglia per l'altro, la prima fase, adesso invece si è diventata allucinata, capito? Non vorrei che si facesse male. Magari cosa adesso se piglia a casa, prende un martello, spacca lo spicco e si fa male. Il discorso è quello, potrebbe anche cadere poi magari dal letto, può scivolare in terra, può cercare che è stressato più di lei, figurati, ogni volta si bisticcia con il cane, anche se il cane va vicino a lei a dormire, che è fatto ma contrario lo fa, sembra il mandante. Sì, dall'ultimo era lucido e soprattutto era una persona che non dava fastidio di nulla, lui usciva, si pigliava l'ultra, si andava a trovare gli amici, poi è venuto, si lamentava che erano morti quelli del Sacro Cuore, che erano morti quelli dei giardini pubblici, che erano morti quelli di Porta Sant'Anto, diceva adesso tocca a me, ogni voce che gli si aggampava di là di me. Sì, a me capita, sei il padre di usare quel stavo lavorando io, a 94 anni, cosa ci permetteva di fare, anzi, meno di 94 anni, perché la moglie gestiva molto prima, prima di morire, cosa faceva? Era già messa male la moglie, qui si portava la lega a letto e se la metteva a fianco della moglie, se capisci, figurati tu cosa faceva quello a quell'età lì, che era mezzo cieco addirittura, però camminava a piedi e si faceva le passeggiate con gli amici, hai capito? Tu figurati quanto era zillo quello. Mio padre aveva la cataratta, però ha voluto operarsi perché ha detto che non doveva dare fastidio a nessuno, lui doveva vedere questi occhi, quindi abbiamo dovuto mettere la firma per operarlo perché non lo volevano operare, perché era troppo grande. E dopo che è venuto a casa leggeva le scritte piccole piccole, le più piccole che vedevi al televisore, le scritte lui le leggeva, cosa che a volte facevo fatica io. Ma io da vicino sono solo che sono fregato adesso, figurati tu, è l'età, quindi se è arrivato a 50 anni succede quello, e da lontano c'ho anche problemi anch'io, la verità è ricca, quindi adesso è un casino, prima facevo la sanatura tranquillamente con l'andatore anche al buio, adesso non c'è scomaco morto. A 40, a 40, adesso, a 40 in poi cominciano questi difetti, e chissà il computer anche la prima volta. No, il computer l'ho conosciuto adesso, meno male, a 50 anni, quindi, ma prima conoscevo dove abitavo a casa, perché c'avevo la lampada, no? Usavo la luce di casa e quindi c'era poca luce, andavo, saldavo, facevo quello che dovevo fare, quindi mi sono incasinato io la vista, capito, da solo. Se tu figurati quando andavo in ospedale, già te lo ricordi, già che mi mettevo a fare riparazioni, c'era un salvatore, destra e tutto, mettevo a riparare l'aria, cosa del genere, senza lampada non c'era un cazzo, io vivo da lì. Allora, cioè, avevo 30 anni, mi divertivo, adesso non posso più fare mai. Devo avere la lente, gli occhiali. radio e basta, sono fregato. Anch'io ho bisogno degli occhiali per vedere da vicino, ma penso che è un po' tutti a me. L'oculista mi ha detto che molti quando usano il computer da giovani, anche prima, però solitamente dopo i 40 anni che si manifesta questo problema qua, quasi non vedere da vicino. Da lontana ancora sono un falco, da vicino ne non vedo, avanti qua. La stessa cosa ti dico, io da vicino manco le scritture per più, da lontano l'impatto è una meraviglia, da vicino niente da fare, infatti c'ho questo d'occhio, cosa devo fare? Vabbè. Mi ha contato Roberto cosa sono passato io là, con la mamma, mamma mia, un bel casino. Questo quadrato lo sapienta? No, sono incasinati. Sono incasinati, adesso sono soli, lui e il fratello, quindi il padre mi è rimasto, non si è ritirato. Non sta bene neanche lui, e quindi stanno lavorando loro, stanno organizzando, facendo, prima seguiva un po' le cose anche il padre, capito? Al computer ce lo vedo ogni tanto, ma il baracchio non l'ho più sentito. Non so, io sono passato l'altro giorno a provarlo, perché il computer non c'entro, quindi ogni tanto passo a provarlo, mi ha detto che c'è un bel cose da fare. Si deve occupare il campo, si deve occupare di tutto, perché prima se ne occupava il padre, capito? E quindi è così, vabbè, bisogna andare avanti, non fermarsi mai. Vabbè, ho visto contigo, magari il padre si è lasciato andare quando è morta la mamma. Ma c'è vinto, insomma, devo fermo lì, non ho molto legato. Comunque, si sta riprendendo anche lui piano piano, ma ripeto, c'è da fare in officina, quindi è sempre impegnato, stanco, impegnato, però non so se sta studiando, se deve andare a avere questi esami, non so, non gli ho chiesto la verità quello. Adesso ci passerò, se ce la faccio ci passo domani, avanti anche a me. C'è l'officina da mantenere, si muove la baracca per forza, anche perché i clienti vogliono servizi, il discorso è quello, più lavoro c'è e meglio è, diceva quello, quando sei tu da soli, che da tre passano a due, la cosa cambia. Prego. Buonasera a tutti, Antonio Grotte. Ciao Antonio, ben sentito, avanti cazzo. Ciao gente, benvenuto, passavo 10 minuti a fare una cicca, poi mi va la nanna, sono stato molto, avanti oggi. Aspetta, ma aspetta, l'orario è quello, passavo di 11 e un quarto, logico che adesso sei stanco, a quest'ora, ho fatto male agli altri metri di roba. Aspettate la cosa riversa, avanti Gianni. Raga, che dire, io sono come strumento, sono molto stanco stasera, cazzo qua, tutta la sera da due ore sparando acqua. No, io sono un po' abitato qua dentro, facendo, quello un po' il computer, un po' mi stavo scrivendo delle cose di lavoro, ma mi ha fatto di nuovo alle 6, quindi sono 11, 11, 14, 12, 5 sono, quindi poi a quest'ora inizia a crollare, precisa la luce, mi ero stavo addormentando al divano, c'avevo la radio accesa, spento tutto, lasciato solo, si è tanto acceso e Ho sentito stasera. Blecco, ti ho detto Blecco, canale 5. Quindi, le voci cessate sono, non è che siamo stupidi, no? Uno prodotto al telefono, Piera, quindi. Ma comunque, quello era un saluto, si è finita lì, ma gli altri non si limitano a salutare, si limitano a rompere i coglioni. Ma questo è dovuto, secondo me, perché chi deve fare o chi dovrebbe dare, cioè, ma poi qual è la differenza? Perché stai parlando in una frequenza più alta, stai parlando in una frequenza più bassa. Io capivo quando, 20 anni, 30 anni fa, quando 40 canali non bastavano perché c'era un sovraffollamento, dove giravi c'era casino, dove giravi c'erano almeno 5-6 persone in ruota, per cui realmente non ti godevi la possibilità di modulare in un certo modo, e allora sì, giustificavo il fatto di andare su altre frequenze. Ma qual è la differenza fra stare sui 27 MHz o stare sui 156, che dico è la banda marina e quindi non ci si può neanche stare? Cioè, trovi qualcosa di meglio. Se vuoi pulizia, basta che, stupidamente noi partiamo sempre in AM, ma basta che vai in FM e si sta con un silenzio unico, perché puoi squalciare la radio, non c'è problema. C'hai una pulizia, una potenza tale che senti le persone molto meglio e utilizzi un decimo della potenza della radio. Ma questo di andare in frequenza, giusto perché il gusto è il proibitano della serie, non ci posso andare, allora ci devo mettere per forza il naso. Finché il naso non te lo staccano. Guarda, io stasera con un bambinetto mi siamo spostati a 200, ci abbiamo fatto due chiacchiere, addirittura ci siamo spostati 10 metri e nessuno c'era che lo passa. Oramai quella frequenza lì è sputtanata, tutti stanno lì, ascoltano, fanno, rompono le palle, perciò io ti sto dicendo che sto stufando. Tu non vuoi sentire polemiche, non vuoi sentire, non entri, non fai, come stai un paio di giorni senza entrare, subito ti rinfacciano un sacco di cose, perciò te lo sto dicendo, io sto sopportando, alla fine non c'entro più, non ti dirò, te ne tolgo anche le blocche, perché non le tolgo, capite, ne tolgo il tutto. Faccio solo esclusivamente HF, punto, non mi fotte più nulla, tanto non c'è più quell'armonia di una volta, non c'è più quelle cose che c'erano prima, ci sono solo rompimenti di palle, ogni giorno ce n'è uno, ogni giorno ce n'è una, non va più bene, perciò io quello che volevo segnalare, già segnalato, ora sta a loro decidere che cosa fare, se rimettere in moto la furgonetta e rompere la testa a questa gente o se continuare così. Comitato regionale al corrente, la sezione aria al corrente, i funzionari della scorraria lo sanno, quindi vedano loro quello che vogliono fare, io quello che volevo dire l'ho detto e quello che volevo fare l'ho fatto. Sì, ma poi non hanno capito che si tolgono anche, si escludono la possibilità un domani di dare l'esame, perché sei meglio di me, che se hai una sanzione penale, perché come avverrebbe nel momento in cui ti scoprono su altre frequenze, non puoi più dare l'esame come radioamatore, tant'è vero che al pari di come te lo tolgono se ti trovano in altre frequenze, non sei più nella condizione di poter dare l'esame se ti trovano in determinate frequenze, motivo per il quale ti sanziona. Il problema è che queste persone, queste che stanno controllando e che dovrebbero controllare, non sono persone atte al lassismo, cioè non sono persone che non stanno facendo il loro dovere, e che sapendo che in cosa incappano le persone che vengono scoperte, vogliono evitargli una pena pecuniaria, cioè di soldi, una pena penale, che poi li segna a vita. Invece queste persone ne approfittano perché pensano che questi qua siano lassi, non stanno facendo il loro dovere, il giorno che si girano le balle vedrai cosa succede. Lo so, vediamo se è rientrato Gianni si è dormito lui. Non so, io ho aspettato tempo fiato e a volte ci ho rimesso anche la faccia, quindi non so che dirti, io quello che ho fatto, ho fatto capire in mille maniere, non lo capiscono e allora facciano quello che vogliono. pochino le tonalità e si renderebbe conto che anche lui è in banda materiale, forse qualcosa cambierebbe, però mi sa che la situazione è quella, quella rimane, non so cosa dirti. Io non ci voglio più mettere né lingua, e fra un po' non ci metterò neanche più il piede, perché così piano piano si accorgono che la situazione sta diventando veramente intollerabile. Anche se qualcuno ti dice qui al telefono e mi lascia perdere, ma qui ma là vivi e lascia vivere, io vivo ma lascia vivere, non ci colpisce, non arrivi né una cosa già di là. Caduto sì. No, pensavo volessi riprendere boh, chi c'era. C'è un tonnello, già non c'è più. Un tonnello vuoi riprendere? Sì, sono al computer in coso, in chat. Così, video chat è stata testa. Già ne fa poco. Va bene, va bene. Così Antonio. Adesso ti stai accorgendo che non avevo torto quando qualche anno fa ti dissi che la situazione era uguale a tutte le parti. Hai perfettamente ragione. Ah, un messaggio per Antonio. Antonio, non ci lasciare soli, mi raccomando, rientra. Non credo proprio, guarda, come ti sei comprato l'altro giorno. Meglio in chat, guarda, che stai a sentire. Cioè, lo siamo in campagna elettorale, quindi quando ti calmerai potrò anche modulare con te, cioè lo sai, io non ti ho mai le balle, anche se ne ho avuto dei problemi, però non ti ho mai offeso, quindi preferisco che parli tu da tranquillo, mettere la sua in campagna elettorale, quando finirà la campagna elettorale lo fanno tutti, poi andiamo a cena. Male. Prima c'è il gruppo, poi andiamo a cena. No, Antonio, non mi lasciare solo, lo sai che io stavo scherzando, che ti voglio un mondo di bene e che assolutamente senza di te che difficilmente potrei modulare. Sì, sì, sicuro. Ah, sai che sono al computer, dai, che sono a quello, se non lo lascio come da solo. Stai credendoci, Sammy, ma t'appendi, fai da bravo. Non posso parlare con due persone contro parlare a metà sono da persona a fanculo. Comunque sia colore per le cose. Poi chi vuole ragionare ragione, la buona, non lo so. Vabbè, devo trascorrere 10-5 minuti ancora, se no spiego direttamente, così vabbè. Così è, dopo non so che dirti, adesso mi appena arrivo a fare radio, passerò più tempo lì sicuramente tra provare, prove, eccetera, eccetera, e imparare a conoscerla, a stare in due metri, a ascoltare coglionate, questo sicuramente. Però è anche che l'attività radioamatoriale che stiamo portando avanti non è una vera attività radioamatoriale, perché un radioamatore dovrebbe stare al contrario di un CB molto più sulle bande, su un certo tipo di banda, e utilizzare quello che noi utilizziamo come canale di riferimento esclusivamente per delle comunicazioni e non viverla come una banda cittadina. Questa è una mia colpa che faccio anch'io, per una serie di motivi. Uno, perché a tutt'oggi non mi sento radioamatore, dovuto al fatto che dovrei avere un attimino più strumentazione, soprattutto non tanto radio, quantomeno mettere un po' più impegno nel mettere le antenne. Però, ci sono tutta una serie di impedimenti, di rimenti che ancora non mi mettono nella condizione di poterlo fare, appena succede lo farò, però è vero anche che stiamo vivendo un po' una banda radioamatoriale come quella di 2 metri, un po' come se fosse una banda cittadina. Sono quello che io questo ho già detto, quindi sentito la preghiera, ho detto cerchiamo di darci una calmata, quindi proprio perché l'atteggiamento è da CB e non da radiomatori, con tutto rispetto, nel senso che non si mangia, si parla, no? Come facciamo qua un po' tutti. Mentre lì mi sembra che l'educazione sta andando a farsi fottere, sta andando proprio di secondo ramo, cosa che non va assolutamente bene, quindi siccome tutti quelli che ascoltano, come presidente della sezione Ari, altri radioamatori di alto livello si stanno lamentando, perciò procediamo alla calmata, io nella mischia non ci voglio più cadere, me ne sto per i fatti miei. Stasera mi sono spostato a Manino con Antonio, andavo al centro, eravamo lì chiacchierando, tranquilli, sereni, senza quello che entra, a voci, quell'altro che, cioè, stiamo arrivando a livelli di rubasso, cioè non stiamo scherzando, non si stiamo a fare da bravi, per favore, che se abbiamo una patente di Stato che va rispettato lo statuto, il regolamento, tutto ciò che ci hanno insegnato, che abbiamo studiato, non uscire dalla gallona, basta guidare la gallona, vieni in obbi e parli come mangi, ti diverti e ti fai due risate, di certe cose non si possono fare, qualcuno ha perso l'orientamento, è bene che qualcuno ogni tanto si legga un pochino le normative, dica ma mi sembra che sto esagerando, capito? Quindi per quanto riguarda le antenne ognuno fa quello che può. Antonio, io sono operatore di radioamatore dal 93, le antenne le ho piazzate 2 anni fa, perciò non ti puoi lamentare di niente, c'è la voglia di fare subito, c'è la voglia di fare cose piano piano, io le cose le sto facendo piano piano perché le possibilità sono quelle, se qualcuno lo vuole fare in fretta vuol dire che c'è la tasca più piena della mia, appunto. C'è Anna vicino a te? Il salone Anna è con questo microfono che disintegra tutto, non riesco a capire perché qua avete i mici 60 hanno una sensibilità allucinante, le altre case non si intende manco la televisione. Passamela un attimino, falla venire un attimo. Spero che sta facendo cose. Due lire, tre lire, allora Simi, non ti svegliare troppo presto perché sennò delusione ce l'hai più presto possibile. E tu invece cosa le regali a Chiara? Un crocco di quelli in ferro. Lo sai che cos'è il crocco? Sì, non sai cos'è il crocco? No. Quello ci mette dietro le porte. Ah. Bravo, sì. Ma lo già volete, già troppo quello che mi stiamo dando, perché è da un po' quanto vicino a per farmi avvio, regalo, non mangio di nada. San Valentino è una cosa esclusivamente per speculare ed è un buco festivo, o meglio serviva a coprire il buco festivo che c'era fra Natale, Capodanno e la Pasqua, capito? Siccome non c'erano delle feste che non fossero state profane, perché realmente San Valentino è una festa profana, non è una festa santa da annoverare come festa cristiana, allora ce l'hanno messa in mezzo, capito? Io saluto. Va bene tu, buonanotte. Ecco qua, scaldami il letto. Scaldami il letto. Non c'è da caldo sonno, ciao, buonanotte. Ci sentiamo al più presto. Mi raccomando, fatelo fare il regalo, Anna. Buonanotte comunque. Buonanotte, buonanotte. Noi vediamo domani, vediamo. Ma ti vorrei che lui, no, non soffro di febbre, io sono un mese, però se la fede era aperta qua, sempre aperto, no, non mi interessa il caldo, c'è abbastanza caldo a casa, mamma mia. Ma la cosa bella è entrare nel letto e trovarlo caldo. Non la termocoperta, ma quello, la parte di sotto, capito? Intanto consuma abbastanza poco, è una bomba, ti addormenti molto più velocemente. Non sono mai provato, però se mi dà anche fastidio, perché io soffro molto il caldo, capito? Poi mi addormento subito, no, manco terra addocco io. Non ho trovato a stare in cucina, sono già addormentato un po'. Non ci piace neanche al freddo, ma ho proprio la sassopra, capito? E allora sei a posto. E allora sei a posto. Fai una chiamata a Gianni, dai, se non c'è ce ne stiamo andando. Io sto cercando di chiudere un elettrodomestico che avevo aperto, uno descortatore che non so neanche a cosa serva. Sì, Gianni si è dormito. Cos'è Gianni? Gianni, avvisai se Gianni. Io ci so. Non so niente di... No, perché sono venuti dei crampi allucinanti dietro la cuscia a crepare. Ma forse ho dovuto passare il naso per fare un favore di pace. Non si può alzare. Così è già sbagliato. E andavo a allungare la gamba e veniva di nuovo il crampo. Mamma mia, via. Una volta mi conta, ma... Che lui allucinante aveva. Io mi stavo ascoltando, ma era grida. La grida con i bambini. Brutte cose, brutte cose. Avanti, trovo. Beh. Per San Valentino la voce calda della frequenza, tanto amore. Non te l'hai comprato il radio già? No, non hai trovato niente? No, ho abbandonato l'idea. Sì, forse è l'unica cosa. Mi sono già pentito di aver speso tutti questi soldi. Per niente, proprio zero su zero. la radio. Nel giro di un anno mi sono comprato esattamente la stazione che hai visto già, me la sono comprata nel giro di 4 mesi, quindi figurati, però adesso sono arrivato, assolutamente non voglio comprare, mi voglio comprare un po' di antenne, almeno qualcosa di meglio, che mi hanno creato un po' di problemi, in questo palazzo mi stanno creando un po' di problemi, tanto è vero che mi devo comprare, come si dice, la direttiva di un radioamatore amico, e non ho potuto farlo proprio perché mi hanno mandato una specie di ingiunzione, l'amministratore di condominio mi ha delegato, cioè mi ha delegato, mi ha convocato perché vuole vedere un po' di documentazione, dai. Ma chi? Qualcuno del condominio? Sì, per questo motivo che stavo facendo, questi qua si sono ritrovati di colpo senza aver mai visto un'antenna, adesso di colpo con un'antenna, anche se della 27, ce ne sono due più quella dei 70 centimetri, dei 2 metri, quindi è normale che si sono un attimino allarmati, e lo sai, la gente quando è ignorante cosa pensa che sia. Sì, sono ignorante, ma no, poi è salito l'altro giorno un tecnico di Polotto per chiamiamo la parabola centralizzata, no? E poi hanno messo le antenne nuove un secondo, che sono 23 anni anche se funzionavano bene, comunque tu immagini che la chiave la devono chiedere a me perché devono passare in mansarda, quindi volate tranquillamente, dopo state attenti ai capi che attraversano il terrazzo, mi raccomando, perché non fate tutto il lavoro, tutto in ordine, senza nessun problema, perché non mettete tutta la chiave, ma tutte le antenne sono le sue, anche quello del motore, tu sei sì. Del mattino rompendo la guardia, mia. Cicciolino è quello, sì, è quello, quello grande grande ciccione ciccione. No, negativo, è quello nero, aspetta, scrivina. Solo parlare, a vedere. Sì, molto bello. Parla, parla al microfono. Sì, appena parla al microfono. Parla. Parla, non so di parla. Parla. Sono belli gare, c'è la verba che non dice. Ho magliata la persiana, è incrociata con una serranda, comunque già c'era un po' di persiana. Ehi, ma che cosa dire? Ha rischiato di diventare persiano lo stesso, però la persiana ambiscia, capito? Lo sai il quello che avrebbe fatto. Sì. Mi ha fatto un telegrafia. adesso la mia zia, non ne voglio guardare in casa, cioè sono belli, quando sono belli, però troppi peli non mi fa. Vabbè, che c'è da quello, c'è un'amica mia che c'ha i gatti, che è molto più buona lei che i gatti, la verità, ma quando ci vado a trovarla, mi lasci in casa sua, fai quello che devi fare, mi ha detto, fai come se fosse a casa tua, mi dice. Ecco, più che il gatto ci mettiamo una domestica in casa, carina, è meglio del gatto, capito? Anziché accarezzare il gatto in grembo, ti metti lei in grembo, accarezzi lì, poi i peli non ne ha, generalmente non ne ha. Ci dà sotto i peli, non ti preoccupare, non è che peli non ne ha, comunque sia, già ce ne sono, dico, della ragazza se ne vuoi. E' pieno Sassari, ha voglia ragazze, anche su me spucce ne sono parecchie, in cerca di qualcuno che se le carichi. Sì, ma come tu saprai io non vado né su Facebook, né su Padu, né su Mythic, che per me sono l'ultima spiaggia, gliel'ho anche detto a un amico, quella è l'ultima spiaggia. Non mi interessa, se devi conoscere gente la devi conoscere in giro, capito? Non attaccato a una tastiera. Senta, se te va in giro, questo è quanto ne sono ragazze, né bada che dove ci fanno un sacco di gente che giovane, che ci assunti, che spende un sacco di soldi in pieno. Ma non so, se bisogna mettere lì a cacciare al bancone, a cercare di fare come fanno su Facebook, tale uguale. Andare a fare l'avventura e invece ci rimangono presi per il culo e basta. Tu vai via Napoli, ce ne sono due ragazze brasiliane, la gente ci va come loro, ci va di lì, capito? Si fanno perdere per il culo, spendono soldi, si attaccano al bancone e cosa c'hanno? Se hanno bevuto 10-15 bottiglie di vino non riescono a fare un cazzo. E invece che si fa, chi fa il lavoro è il figlio. Ne parlo del circo, la figurati. Va bene, ma io non frequento circoli, non frequento bar equivoci con scannatrici. Che c'è quella, non è che se tu dovete fare il bar, che bocco di via Roma, è pieno di ragazze che stanno cercando uomini, forse che non hai capito. Anzi, uomini, ragazzi. Da scannare però, non hai capito, da scannare proprio, siamo subito da scannare, devi saper girare, non ti credi che non è fatto che mi mezzo dice oh ciao, mi sei simpatico, ci facciamo l'avventura, mi viene per forza a conoscere in qualche posto, in qualche circolo, dove ci sono soldi, il discorso è quello, devi spendere i soldi, devi spendere 100 euro per dire. Lei ti presenti, io mi chiamo Toto, lei si chiama Toto, lei lavora in un posto, tu dici io lavoro in un altro, e li vedete, eccetera. L'inviato è pieno di queste cose qua. Ah, quindi tu per approcciare devi spendere 200 euro al bar con una ragazza, non esiste. Con 200 euro mi ci compro un baracchino e ci compro, molto meglio. Che cosa vuoi fare? Ma l'impetto ti metti lì con un bello e scrivi, sto cercando una ragazza che mi voglia, cazzo non lo so io, non è più tempo di prima, sono gli anni 80, no, perché trovavi le persone in piazza d'Italia, piazza Castello, come i tempi sono cambiati, capito? Quindi la gente va in quei bar dove si frequentano giovani, ci sono le ragazze che si mettono lì, ci sono 15 amiche, 15 amici per dire, sicuramente infatti, esci che vada a conoscerla. Come si fa anche in America d'attorno, si fa anche in tutti i posti si fa così. Non è che la conosci, a meno che non vai in discoteca che fai di patti, che cosa vuoi ti dica io, che tu vedi qua diffuse. Io fretta non ne ho e non sono alla ricerca continua come qualcuno che conoscevo e che conosco. Non ho baracchino, è gente extra baracchino. Sono sempre alla ricerca, capito? Non hanno altro, nella vita non hanno altro. infatti io le ragazze che ho avuto le ho sempre trovate casualmente, senza andare su Badoo, senza andare in bar alla ricerca specifica, capito Antonio? Va bene, con queste tardi e forse mi bevo un bicchiere di latte, no? Non ne ho voglia di cenare. Beh, va bene. Ciao Antonio, purtroppo non sono potuto passare perché sono in ostaggio. Cazzo sei in ostaggio? Ma chi so se ero in ostaggio con mamma, figurati. E sei andato a casa, sei andato per il cane. Poi mi ho fatto il caffè, eccetera eccetera, poi c'è uscito un po' giù, poi sono dovuto andare a fare la spesa, figurati tu, più saggio di bene voi qua, ma ormai in testa non c'è più, quindi a un certo punto cosa vuoi, se magari lascio la porta aperta me la trovo in mezzo strada, passo la macchina, la metto sotto, devo stare anche molto attento, ho capito il discorso con me. Avere, no, siamo in due, per dire, dobbiamo avere otto occhi con questa, e quando sono qualcuno, specialmente in postino, c'è il vizio di suonare a tutti, quindi apre la porta, entrare a parte, sale a casa mia, si beve l'acqua, poi scende giù, poi mamma deve salire a piedi per cercare il cane, poi io devo scendere un po' giù, hai capito? Ma siccome ancora la mano le fa male dopo quella caduta, andiamo al medico, andiamo da Vidosciano, andiamo a fare la spesa, andiamo dai cinesi, è allucinante, vuole sempre uscire. Va bene Antonio, ti saluto, ciao Antonio, anche ciao chiunque fosse all'ascolto, quello ti permette. E ciao Marco, ci sentiamo allora, quello ti fammi sistemare un po' il braccio, poi vedrai già si rimette, ho detto che poi esce da sola. Non preoccupate, per quello è tutta una cosa che meno male che guarisce veloce, meno la mano. Comunque fallo uscire anche da sola. Abitola un pochettino, no? Di non chiudersi dentro casa, che dentro casa è peggio, capito? E uscire, non lo so, te lo ti ho già detto, distrarsi. Non so, andare al cinema, andare con qualcuno, mi ha fatto qualcuno, non lo so. Non è che sei richiesto in casa una persona, se ti richiedi in casa sei buttito, ti viene proprio la depressione a forza, ti viene. Io non male esco tutti i giorni, vabbè, a me viene l'ansia perché devo andare a prendere, fare quell'altro ancora, capito, quante cose non si possono fare. Io sono una persona che ha 34 anni, il discorso è diverso, che non si tiene, che purtroppo non è autosufficiente, quindi bisogna seguirla, ma grazie a Dio, tornare già giovane, farlo uscire, che è meglio non farlo aumentare in casa, farlo uscire meglio di fare una passeggiata, di frequentare qualche, non so, scuola di danza, di ballo, quello che è, la faccia libera. Se per questo esce anche troppo adesso, faccio il corso di inglese, il corso di ballo, mi allucinano, tu vuoi trascinare me a fare le cose, e poi non deve uscire troppo a negozi, che se no spende e poi non ce ne rimane per me. Che stronzo che sei. Mi dico di fratello, mi dico di adesso, quando ti vuoi la pensione, mamma mia, la pensione ce l'ho io, già ci penso io a fare la spesa, e poi vedrò. Vabbè, d'altronde è così, il mondo gira così, va bene, tanto è buono. Disperare, cosa vuoi che dica io? Ciao Marco, buonanotte. Ehi, ciao a tutti. Va bene, vi salutate voi due, dai, fate la pace con un bacio sul gelatore. Cazzo. uscire, non chiudete dentro a casa, dammi retta che è meglio, esci e poi ci facciamo da tua madre, e se ci vive in casa si è fregato la vela, allora lo sto dicendo per esperienza. Una volta che è in casa sei fottuto, è come quella che tocca a letto, che tu non sei reato, non si vuole alzare più. Hai capito? E poi da uno poi i problemi, come ce li ho avuti io, quindi già ce l'ho sottopare, figurati tu. È molto molto difficile, guarda, i nervi saldi. E sono molto paziente, grazie a Dio. Avrei fatto di quei problemi con. Vabbè mamma, la verità, quando ci ha fatto vinto ha sofferto, adesso stiamo soffrendo noi, è una cosa giusta, però fino a un certo punto la verità si vinca. Sì, ma io già esco quando voglio, è che mi sento dire al baracchino che non esco mai, forse qualcuno preferisce credere che io non esca, non so perché. Io esco, ma non è che devo dare reso conto al baracchino. Non è che stia entrando tanto al baracchino, anche per quello, Antone. No, ma qua io voglio crescere, non è che c'è niente il baracchino, anzi. Il baracchino si viene in casa. Esci, fate un giro, non so, come faccio io. Qualche volta, quindi me ne vado per dire a centro storico per svagarmi, incontro con le amiche mie, mi svago, parlo. Poi c'è quell'altra che c'è il circolo, che quando vado di lì parliamo assieme, io non parlo un cazzo addirittura, non sai, quindi mi dico la bere, sto lì una mezz'oretta, devo svagarmi, capito? Cioè, devo togliermi i pensieri della testa, quando sei in casa e sei appresso a devi fare quello, devi fare quell'altro, ti viene il coso, chi non l'ha avuto quell'esperienza della madre non lo sa cos'è il discorso, ma chi lo ha, stai tranquillo che ci pensa anche proprio, beh anche ci pensa, se non avevi chiuso in casa è fregato, quindi deve giocare a un certo punto, anche deve pensare un sacco di cose, prima la famiglia tua, poi la tua madre, siccome magari due fratelli ci pensano e gli altri se ne sbattono i coglioni, quindi a un certo punto il discorso è quello lì, non puoi fare, devi fare per forza a turno, la mattina uno, la sera l'altra, capito, pulire in terra, eccetera, eccetera, lui ormai c'ha 84 anni, cioè, io parlo per mia madre naturalmente, lui chi non ha avuto quell'esperienza non lo può mai dire cosa ho passato io, capito? Comunque sia, ormai meno male, già è giovane, quindi già sei tranquillo, però farla uscire che è molto meglio, non farla chiudere di se stessa, lo sto dicendo per esperienza, farla uscire, farla andare a ballare, a conoscere persone, non farla chiudere di se stessa, se non si è fregato Marco. Te l'ho detto, esce anche troppo. Purtroppo le amiche sono tutte messe male, molte amiche dell'infanzia sono tutte morte. Poi le amiche rimaste, quella c'ha la claustrofobia, quell'altra va solo in chiesa, quell'altra è messa male, zoppa tutte e due le gambe. Chi c'ha il marito mezzo morto, quindi non può uscire. Alla fine è lei quella che se la cava meglio, mi dice. Purtroppo, le tre amiche sono messe male, in poche parole, sono messe male, e lei alla faccia loro ancora se la cava. E poi Antonio, ricordati che è giovane, che ha 20 anni, no? Non quell'età lì. Ma tu stai dicendo che è giovane, non è che ci abbia quell'età che... Hai capito? Quello sto dicendo. Se sono amiche, quello che è, uno stava a ballo per dire, dove si diverta, passa l'ora, conosce altre amicizie, quello che è, non lo so, vabbè, noi maschi siamo abituati diversamente, noi di solito, anzi noi, quindi anche di solito vanno al circolo, incominciano a giocare a carte e poi si antuffano a giocare a carte perché è vero. di nulla. Ma per dire, c'è quello invece che frequenta stare a ballo, si mette a ballare, si diverte una volta a settimana, una volta a settimana, quello che non si va a fare, cioè stare in casa, a parte ti rincoglionisce una cosa, però poi ti manda giù, in Italia c'è lo stress, arriva la bolletta, arriva quella, arriva quell'altro, quindi sta sempre in pensiero, quindi meglio uscire, anche cioè, farsi un giro, anche con te al limite lì, per dire, che tu sei suo figlio, fare un giro, che non sarà fatta una piccola pizza, quello che è, per passare un'ora e mezzo, senza annoiarvi, c'è bisogno di cioè, telefonare per dire, di portare la pizza a casa, uscite fuori, per dire, fatta una, quello che ti piace, ma te la fai uscire, non devi fare il strappare. Tutto ciò che dici lo facciamo già, però voglio anche i miei spazi, capito? Non è che posso sempre stare a portare lei in giro, io devo coltivare anche le coltivare amicizie femminili, non so se mi spiego. Beh certo, sulla pianeta tua, scusa, devi cercare anche tu di andare a fare forcone ogni tanto, no? Quindi devi avere i tuoi spazi, quindi a un certo punto non ti costa. Quindi quando le ragazze ci sono che lavorano nei mari, che avevi visto è buone anche, non costa niente, andare a trovarle, contano tutti, magari ci fai amicizia e lasci qualcosa per dire, la cosa lascia cosa. Non è detto che tu conosci per portare una persona da spendere soldi. Allora ci fai amicizia, dici simpatico e cesce, niente di strada. Grazie della lezione di vita. Ok, ci sentiamo. Buonanotte. Nessuno si lezione di vita, Marco. Magari ce ne sono adesso parecchi anche dove non cerchi. Purtroppo prima tutti andavamo in piazza in Italia per te cartello a cercare che cosa? Il lampione, a ve la vai, oppure a trovare la prima che trovi, a capire la pioppa come il porto. Quindi bisogna girare, lo trovo tutti, detto, vabbè, tu ci hai messo il contatto del bar, quindi non te lo dirò, forse se tu vai in bar, forse vuoi gente che, ragazze che lavorano, per dire, i negozi di abbigliamento e cose del genere, vanno in quel bar dove si spende parecchio, vanno lì e cercano altri ragazzi così, capito? L'amicizia, ma poi si fidanzano e cose del genere, purtroppo è così. Ma la smetti di raccazzate. Devi c'è ragione tu allora, infatti. C'è ragione veramente tu. No, tu mi fa ridere che Antonello mi istruisce come se avessi 13 anni. No, questo è solo come se avessi 13 anni, che c'entra quello? Sto uscendo per come stanno le cose adesso, non è che ci abito di c'è la verità, tu sei libero di fare ciò che vuoi, ci avete visto le ragazze adesso, i tempi sono cambiati, non è più come prima che andavi in giro, andavi a caffè, no? e trovavi le persone così, i tempi ormai di perfetto non si fa più nessuno che attende le persone, quindi a meno che non conosci qualcuno di qualcuno ancora, oppure a meno che non vai in discoteca, il discorso è quello. Vabbè, io buonanotte, dai, buonanotte a tutti, se no mangio a mezzanotte, o all'inizio o all'una. Sì, ma c'è mezzanotte e mezzo l'altro giorno. Vabbè, io sono abituato, per voi è difficile. Io sono abituato, quindi per me il ritmo è quello, capito? C'ho un fuso orario diverso, un fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti. Buonanotte. Pensavo la cosa Concordia. Ciao, buonanotte Marco. E avanti, buonasera. squillare il telefono? Ah? Questo è un sapere che sta con un bacino 161 canali. E chi è il VIP con il tuo? Non è che siano molti. Beh, non sono molti, no. Mio, vabbè, mio. Io ho fatto VIP, a parte il quello mi ha regalato tu, baracchino, con salerta. Sono uguali. L'altro non lo trovo più, quello che volevo buttare era una mondezza, l'ho messo in un sacco nero, ma non è che per sbaglio ce l'ho già buttato nel cassonetto, può essere. Spero di no, guarda, io c'ho anche un po' di gente che sono qua addirittura, già l'hai visto, che mi ha regalato Giampaolo, figurati tu. Di apparati, su quella cosa che doveva arrivare, i finali non funzionano. Come mai? Perché il venditore è un paraculo, capito? Ho detto, io ho chiesto, funziona tutto in ogni parte? Sì, funziona tutto. E vabbè, dovrò procurarli. Se va bene si spendono un paio di euro, se va male una ventina. Che finali sono, dimmi, prima di tutto quello che monta? Allora, potrebbero essere I2SC1969, ormai introvabili solo da privati che li vendono a 30 euro l'uno, oppure gli MS1307, facilmente sostituibili con gli IRF, aspetta, non mi ricordo se erano i 2030 o IRF 520, quelli che costano un euro. Allora, gli MRF, come dice, i 1307 a parte tutto sono 2 SC, perché ce li ho io, prima di tutto. Poi, che sono in pratica gli equivalenti, le 1969. Poi ci sono i piloti, il pilota che è il 2166, i 2SC, che li monta il Saturnetto uguali. Poi c'è le, in pratica ci sono in certi appari che montano il 2314 e il 2078, hai capito? Sì, ma a volte fanno degli esperimenti strani, come è successo nel presidente che c'ho io, ci hanno messo il 2078 come pilota e un MF477, e siccome il 2078 scarda e sembra un treno, non è assolutamente quello lì, finale, il prefinale. Siccome la gente sperimenta di tanto, quindi bisogna lasciarli fare, come si dice, no? Come è successo in un Saturnetto, che poi si è messo, gli hanno staccato il 1969 e gli hanno messo il 1307. 2SC, che chiamano VAT, mi corrisponde il 1969, in pratica. Almeno sono quasi uguali. Vabbè, lì è strano perché una versione montava i 1969, una versione è gli MS1307. I 1307 li puoi sostituire con gli IRF 20 qualcosa. No, IRF qualcosa, non mi ricordo quale, vabbè, là. Dovrò approfondire la cosa, là. Sentiamo allora, buonanotte. Aspetta, sto dicendo perché c'è il presidente Jackson qua e ci vuole, diciamo, cioè ci vuole il 477. Allora, eliminare quello e fare un'inversione che ho fatto Alessandro, quello del Monte. Devo metterci il 1307, quindi la tua 17, e devo eliminare, mi sembra, adesso mi ricordo bene, c'è un foglietto. Mi sembra, con le cose metti qua, se non ricordo. La verità, la mia fanno inverso. Comunque sia, funziona per lo stesso. Non da 40 watt, ma da 15, non di più. Come lo stella. Però sono la stessa identica cosa. Vabbè, lì non c'è schema, non c'è schema. sistema e sono state fatte più versioni, comunque due almeno, due versioni, con finali differenti. Vabbè, da, buonanotte, da, se ne riparliamo. Credo che non c'è problema, Marco, già lo so. Per quello non sono problemi. Comunque sia, se questioni di finali, solo questioni di finali, poi bisogna avere anche, se ha qualche cosa, Marco, perché se questioni di finali avevano i limiti già cambiati, ma se per me è qualche cosa al limite, se non ti hanno cambiati, evidentemente c'è qualcos'altro, perché non è possibile. Infatti potrebbe essere altro. Comunque i finali sembrano gli originali, perché le saldature sembrano le originali, sono lucidissime, non sembrano essere alterate, e i finali sono cancellati, l'etichetta finale è cancellata, quindi non so se sono davvero il 13.07 o qualche altra cosa, ma a me mi puzza un po' comunque. Vabbè, da, ribuonanotte. Comunque un peccato, veramente un peccato, cioè che ti abbiano dato venduto un baracchino così e poi ci siamo persi per certe cazzate, la verità. E come la penso io. E mi dispiace anche se con la parecchia. Quindi, per me, spero che si possa recuperare Marco. Addirittura io in un lineare, dicio qua io piccolino, 30 watt, c'era il tessuto cancellato, l'ho graffiato mentre andava alla fabbrica, era tangibile, tentate già, te l'ho fatto vedere mi sembra, con l'alluminio. Adesso non so se è morta, diciamo che è stata proprio quella cazzo morta, la vedo. Però vai sul dubbio, a un certo punto vai sul dubbio. Comunque la ricezione è un bijou, migliore di quanto mi aspettassi. Marco, cosa vuol dire? Se lo trovi, se riesco a trovare lo schema, te lo metto a posto, per me non costa niente, per dire, tanto me la garanzia è passata, per dire, anzi ce l'ho fatta passare, quindi se riesco a fare i miracoli, io per me sono contento di restituirlo funzionante, almeno c'è una soddisfazione e basta. Adesso tutto sta a tramite la ditta di Simona, fammi avere lo schema elettrico e capito, eccetera, eccetera. Io non ci posso fare altro, io spero di avere la fortuna almeno, capito? Di questa, di farmi avere lo schema con la sigla giusta dei finali, in modo da cambiare, se dovesse essere solo quelli, adesso non so, la verità, magari i finali non c'hanno niente, potrebbe magari essere una fesseria per dire, non lo so. Di seguito da sì. Per il resto sembra a posto, niente da dire, niente pasticci, niente. Va bene, buonanotte. Ok, ciao, ma buonanotte, da metto la faccia, ciao, se mi avevo stanzato in casa a baracchino, mi ricordi a Clementina. Ciao, buonanotte, ti ha linguato, più o meno. Quello era un bel bocconcino a quanto pare. Clementina. Se non ti ricordi, un certo Pippo e Heidi pensavano, facevano, bisticciavano oppure parlavano al baracchino, i canali sotto. Sia bisticci che corteggiamenti, o come li vuoi chiamare, sempre al baracchino. Già me lo ricordo quello, la verità già me lo ricordo quello, nei tempi qui della verità, ci divertivamo, almeno non andavamo a fregare un cazzo agli altri, ma è stato bello quello, lo periodo. Se lo sentivi prima, guarda, sono a 27, mi ha fatto bello adesso, vabbè, infatti non parla che entravano, comunque. comunque sia, c'è un bel giro. Dei tempi, tutto non si possono risolvere. Ormai c'è internet e quindi i cibi di Tobini qua. Figurati, tutti i Tobini. Ci ha trovato a... Sì, ma perché siamo in città di cibi che ha avuto questo periodo questa settimana qua. Non ho idea, a casa, ma lo sapevo che erano loro. Ma su Facebook? E allora, su Facebook proprio, ripeto di cibi. Che mi ha segno giravo, cioè io ho detto che cazzo è questo, e poi ho controllato bene un CB. Tutti i volte ricordo quella che parlavo io con gli occhi azzurri. Io ricordo Valentina. E comunque digli a questi signori di alzare le antenne e rientrare in 27 e mi stare su quel ridicolo mezzo di comunicazione. Già glielo dico. Lì si parla di Ciabalacchino, lei si è sposata e poi abita di fronte, figurati, che ci muoveva proprio il ginco, allora il ginco lei, io in parte con la figlia di Battistino me di Giaguaro di Sassa, te lo dico di Giaguaro. Ma ditti no, di Sassa, io non ditti, perché io volevo anche con lui ditti, la verità c'è quello di Sassa che faceva riparazioni, c'era un'officina giù a Pedanieta e riparava delle auto per una ditta, adesso mi ricordo che già era, che trasportava, non mi ricordo se era la piccina, una roba del genere. Antone, tu mi parli di gente che io non ho manco sentito mai al baracchino, poi dopo tutti questi anni non me li posso ricordare. Io, a parte da i soliti notti, ascoltavo e basta. E vabbè, allora, comunque sia... su Facebook la figlia l'ha portata, tu figurati, sai quanti cibi c'ho io in lista dove sono io, ce ne sono almeno 400, ce ne so tutti, ci hanno visti, poi c'è ginkgo, c'è buca fritta, ce ne sono tanti di cibi, la verità, pieno, sono pieno di cibi io qua. Sapete che hanno migrato con altri suoi mezzi di comunicazione? Vabbè, a me non piace quel tipo di... Oppure se di comunicare c'è, cioè, te l'ho detto, usavamo una chat più antica, la chat IRC, Internet Relay Channel. Mi piaceva anche come tipo di chat. Oppure per i messaggi c'è la posta, perché c'è gente che non sapendo usare la posta elettronica mi aveva detto dai, mettiti Facebook così ti mando i messaggi, e ho detto ma per i messaggi c'è la posta, ma la posta non la so usare, allora arrangiati. Ecco, com'è possibile dover usare Facebook perché non sai usare la posta elettronica? È una cosa assurda, impari, come tante le cose si impara. Io mi sono fatto la posta elettronica, solo che il computer mio non mi sono neanche impostato, la verità, ancora, figurati tu, perché ho cercato di postarlo, siccome non conosco il computer, anzi il computer mio addirittura ne ho due, non uno, cioè questo qua è quello portatile, e quindi è un casino, da una cosa all'altra, sul telefonino ci sono riuscito, sul telefono di mio fratello a impostarmi tutto, su questo sul computer no, sono un casino, è un pezzo vecchio, capito, e quindi non lo conosco. Pensa che io sto usando un computer che sarà del 2003, a parte gli ho cambiato qualche cosa tipo la scheda video, però è del 2003, è allo allucinante. Prima c'era Windows 98, poi ho fatto mettere XP. Il suo hard disk è da soli, allora l'hard disk era del 2000, dell'anno 2000, ed è da soli 13,2 GB, 13,2, l'hard disk più piccolo che ho. Allora, fammi ricordare, due basi, un portatile e un tablet. Perché c'ho stato le base, addirittura c'è l'attacco per la TV, eccetera, eccetera, ce lo fermo in garage. Quindi, è quello. Cioè, io purtroppo non posso mettermelo di qua, perché quindi la scheda madre non me lo fa permettere, se non ce l'avrei anche messo, per dire. Però c'ha due, te lo faccio vedere, guarda. Io te lo porto via, ma non mi frega niente, se tu sei vivo e tornato da te, te lo sistemi e te lo piazzi nel tuo. Addirittura adesso che ci penso, questo dovrebbe essere del 2002 almeno come chassis e scheda madre. 2002, figurati. E con pezzi altri anche recuperati del 2000 però. È allucinante. Infatti certe applicazioni come YouTube sono veramente pesanti per XP e per il processore. Il processore è un Duron 1300. YouTube, i video mi saltano, vanno, compaiono colori strani e non ce la fa tanto. D'altronde, se funzionano tutti io non ne cambio computer, o non ne voglio cambiare. Poi questi sistemi operativi di adesso non mi scompifferano tanto, capito? Ci devo buttare tutte le periferiche che andavano bene per XP e così per il 98. Allora, quando sono passato dal 98 XP ho dovuto buttarci uno scanner per diapositive, un bellissimo scanner normale della Hewlett-Packard, mi pare, bello, bello, veramente. Poi ci ho dovuto buttare una scheda di acquisizione video e più varie altre cose, capito? E sono tutte quei buttate e ormai non servono a niente, perché chi lo vuole più il 98? Non servono a niente, ce l'ho buttare tutte. Esagerato. Non so, io ci ho finito un tè, metto vuoto, vabbè, e quindi devo lavorare con quello che ho. Poi c'ho un altro portatile e basta. Da metterci nel disco esterno. Adesso mi devo pigliare un coso, un tablet come c'avevo prima, solo che devo fare l'attacco, un tablet 3G, perché se no non posso mettere la scheda, se no mi tocca fare adesso un casino che mi tocca fare adesso con questo quello grande, capito? Inserire il programma per poter ricevere l'under 6, in pratica la pennetta, capito? Un tablet 3G, mia zia l'ha pagato 119 della Mediacom, fa tutto anche dal telefono. L'hanno dato in offerta a Auchan da 99,90, bel prezzo, cioè conta che il mio 179 euro, però vabbè, ha più cose, all'uscita HDMI, praticamente io se scarico un filmato in alta definizione col mio lettore DVD di Wix non lo legge in alta definizione, invece il tablet lo legge, non faccio altro che collegare l'uscita HDMI al televisore piatto e mi fa vedere i video in quasi alta risoluzione. Non è full HD naturalmente, mi pare che è 720 punti di uscita, però già si vede che è buono. del 98. Io sto usando un programma grafico del 98. E siccome ha problemi a funzionare con XP, soprattutto col Service Pack 3, ho dovuto farlo in compatibilità per Windows 98. Però fa quello che deve fare, puoi ritoccare le foto, modificarle, le fare occhi rossi, correggere i rodi della pelle, tutto quello che serve in realtà. Ho capito, cosa che gli ultimi tipi di computer, quello Windows 8, hanno usato alcuni problemi per poter agganciare l'antenna, quello per poter ricevere i programmi Wi-Fi, quella grossa, quell'antenna grossa che costa 150 euro completa di tutto. Non la fa prendere, capito? No, non ti fa entrare, quindi ci vuole il programma vecchio, figura di tutto. Sarò costretto a migrare, il sistema operativo sarà uno shock, ci devo buttare tutto quello che ho adesso, forse la stampante ancora la prende perché l'ho presa un annetto fa, seppure quella è compatibile. Sarebbe bello usare Linux, anche le versioni un po'. Sono delle versioni che lavorano su computer anzianotti. Puoi fare le cose normali, no? Navigare, posta, eccetera, eccetera. E poi Linux sono belli che hanno degli strumenti tipo Backtrack, no? Quello che ti permette di entrare anche sui tuoi wifi protetti dalla UPA, è solo questione di tempo, quello annusa i pacchetti dei dati, li decifra e poi puoi entrare dove vuoi, naturalmente a me non serve perché ho la connessione wifi, non falli, adesso è morto cocco di e cocco da, adesso è morto cocco di e cocco da. Sono morto, aspetta. Lascia stare l'uccello e prende il microfono. Secondo te se non ho usato la pipì, cosa facevo? La facevo con il baracchino. Ah, fatela addosso, a me non mi interessa, il baracchino non si deve lasciare mai. Piuttosto mettiti il catetere. La Laura, mi dovrei essere messi così. Avesse un filare di catetere in casa per entrare dentro a fare la pupù. No, per la pupù è un problema perché il catetere per lì dietro no, non credo che ci sia, a meno che non sia grosso, abbastanza grosso, boh. Vabbè, basta sconcette. Sai cosa ho avuto anche? Quei tablet appena usciti, quegli Asus piccoli, con lo schermo da 8,9 pollici. Poi li hanno fatti più grandi, da 10, da 12, solo che non mi ci trovavo niente. Non lo usavo mai, l'ho rivenduto ed era nuovissimo, nuovissimo. Invece col tablet mi trovo meglio perché lo schermo ce l'ha più o meno così da 7, da. Però non lo devi poggiare sul tavolo, puoi stare anche a letto, puoi stare sul cesso, puoi stare dove vuoi, in macchina anche dopo, lo prendi in mano e il tablet lo puoi usare, non devi avere in poche parole nessuna superficie da appoggio. Sì, vabbè, ma devi avere il segnale dentro casa, se non si è fregato, che c'entra. Guarda che io ti ho detto che in media come ho avuto quando siete pubblici, ho usato 2 mesi, non di più, poi l'ho regalato a mia nipote, e addirittura gli aveva messo un sacco di programmi e faceva la videochiamata col telefonino 3 della madre, figurati tu, gli aveva messo la... il programma piava e inseriva il coso, piava la terza la fa e si vedevano, cazzo, figurati tu, avevo pagato allora 50 euro, figurati tu adesso. Ci sono comunque un sacco di tablet a poco prezzo, sono diminuiti parecchio, prima erano quelli di semplice, adesso sono usciti gli altri modelli, quindi ci fidano la carta, si è a posto per dire, addirittura c'è anche doppio la telecamera, quindi va anche bene, ma il poi cose. Basta che ampli la memoria, auguri senza roba, il problema è la batteria, solo quello. Perché la batteria del tablet non dura molto. Sì, e in effetti è piccola la batteria, mi si apri il Mediacom come quello che ho io, la batteria è quadrata, non è molto grande, la credo fosse molto più grande e più piatta. Cosa ti stavo dicendo? Sì, i tablet stanno abbassando i prezzi, comunque io non ho problemi a tonne perché il mio tablet ha il 3G, quindi non hai bisogno di wifi. Non so, ma io l'ho avuto io, non ho 3G, ho avuto l'altro. Se volevo wifi, cosa dovevo fare? Mettermi in piedi dentro a casa, davanti alla finestra di camera mia, allora piavo il segnale in cucina, delle rotte calafrici. E piavo e andavo dove non andavo, per dire. Non funzionava. Poi c'è una che a casa sua si è messo il... la linea, diciamo, wifi interna e quindi usava la figlia, il padre usava il grande, la figlia usava il piccolino e Giovanna usava il cellulare, quindi di tutto la Giovanna usa il cellulare, potete parlare su Facebook per dire. Va bene. Adesso pensa che deve mangiare anche mamma. Oggi abbiamo fatto proprio rire, incollata la TV e al baracchino. Va bene, ciao Antonio e buonanotte di nuovo. Ci sentiamo uno di questi giorni. Quando vuoi chiamarmi il telefono e sono a casa. Se vuoi uscire ci vediamo qualcosa e andiamo da Naua. Così almeno ci divertiamo un pochettino, di ti sbagli. D'accordo, quella buona che c'è qui di fronte non c'è più, quindi andiamo da Naua, non usci, sei tranquilla. Ah, tu stai dicendo lì, al distributore, e l'altra era più carina comunque, aveva più l'aria, vabbè da, buonanotte. Ok, no, l'altra già è più tranquilla, non quella di cui è tutta la mia domanda. Almeno ci vuoi parlare, è sempre tranquilla. Ma ti permetti di agisci, non so se ti fai un giro, non so che è, adesso ti sbaglio un pochettino.